canale 10. Avanti, buonasera. Mi chiamo Natalino. Guarda che ti stanno suonando il clacso. A me? Sento il sottofondo che stanno fatto pepe. Sì, aspetta un attimo. Il sottofondo lo togliamo subito. Ecco, adesso non si sente niente. Natali, ti stanno chiamando i tedeschi. I tedeschi stanno chiamando. Sì, non si deve stare dicendo Nataline. Ja, wunderbar. Sono in banda laterale, stanno preso questo canale oramai anche. E beh, allora, tutto bene, tutto a posto, andato al mare? Sì, tutto bene. A mare non ci sono andato perché avevo altri impegni oggi. A 50 e quindi negativo mare, andato a spendere tutti i risparmi. Ha fatto bene, così giri l'economia almeno. E allora l'ho dovuta portare dal dentista e sono dolori quelli. È vero che ti fanno l'anestesia per la bocca, ma per il coso, per il portafoglio, poi lo lasciano soffrire quanto vogliono. E adesso gli dico, concedigli che ti sei addormentato anche il braccio, così non puoi prendere i soldi. Oppure che dentro il portafoglio c'è un animale che morsica. E tieni a prenderli, gli dico di dire così. Oppure fai come fanno tutti, dici va bene, grazie, pagherò. Pagherò. Ah, ma sono terribili qua, sono segnaloni questi, c'ho lo special a 4, ma lo passano tranquillamente. Sono FM in banda laterale. Così è. E beh, Giulio non si è sentito. È negativo. No, cioè negativo. Adesso non si è sentito. Stamattina stavo parlando con Giulio quando sono rientrato dal dentista. Poi a ora di pranzo ho dovuto chiudere che dovevo cucinare, capito? Già l'ho sentito stamattina, magari già entra più tardi. La 50 mi ha fatto il caffè, visto lei quanto è brava. Ah, ecco cos'era questo rumore. Cioè, io però sono un cavallo invece di tu che stavi girando lo zucchero alla tazzina. Sto cercando una cosa, ma non la so. Strano. Vabbè. Di là non c'è nessuno, Claudio starà cucinando. Scusa Gianfra, si può ripetere per cortesia che stavo parlando con la 50? Ho detto che di là non c'è nessuno, ci sarà Claudio che sta cucinando. Sì, a quest'ora? Sì, vabbè, per stanotte, così almeno poi non cucina dopo. Ma sono terribili veramente, questi qui, ho dovuto alzare lo squelch, se non li sento. Non arrivavano forti, arrivavano molto forti. Ho visto l'antenna di Franco stamattina, siccome sono andato da lui perché non mi funzionava la ventola dell'abitacolo. E poi era un filo che non toccava bene, che non faceva bene contatto. E così l'abbiamo messo in funzione, torna un caldo l'altro giorno, mamma mia! Oggi mi sembra più tranquillo, stamattina perlomeno c'era più fresco. Io vabbè sono stato fresco, alle 8 ero già, stavo già andando fuori. C'è mia moglie che sta bisticciando col cane. Io tra poco do una fucilata alla cornacchia, la senti? Ogni tanto mi fa il verso, ma dove? Prima che non c'è più le antenne, dove? È pazzesco. Ah no, terra. La senti, ci sente? Natalino, sento la ventola. No, adesso ce l'ho la ventola, hai capito bello bene che ce l'ho la ventola. Mi quel crumino di pedivella è venuto, mi. Sì, ma stamattina non ne ho preso il ventola. Adesso c'è la ventola, ma sei sempre senza la ventola. No, mi si è filmata la radice a ventola, non vede avverso. prendi i rifusibili, di tutti rimanere in aggiopata, non sono riuscito. E dopo mi sono ricordato che Franco aveva toccato un filo e l'aveva fatto andare un'altra volta e mi era successo. E deve essere il contatto ossidato, che non faceva bene il contatto e si è fermata per quello. Un caldo l'altro giorno, mamma mia, che ho accompagnato attorno a mia moglie, stamattina lo stesso, mamma mia, ho visto l'antenna di Franco, cazzo, ma lo sai che è veramente toga, è leggera, leggera tipo quella che ho io, però c'è radialini piccoli piccoli, sembra una bibanda. Non so, mi ha preso il piacere, esce molto bene con l'antenna, ciao anche Gianfranco, buonasera a tutti, eh. Sempre di passaggio io però e non mi trattengo molto, giusto per salutarvi. Già ti telefono alle 2 stanotte, così impari tu a andartene subito. Io non giuro, ma cari, ve l'ho detto, le radio per me oramai sono in fase di abbandono, ce li ho, entro a salutarvi, mi fa piacere, ma sta ore e ore in radio come facevo prima, non... Mi è caratto, dai Giaffa, riprendi tu e io continuo a fare quello che stavo facendo. A dopo, ciao. E anche oggi si è dimenticato il connettore con me. Ma non solo il connettore, mi sono dimenticato altre cose per andare domani, però domani il fuso è chiuso e quindi niente da fare. Vabbè, pazienza. E ti sei pure dimenticato che domani è domenica e sono tutti chiusi. Visto che effetto fa la sali la campagna. Allora si è dimenticato di tutto e di tutti. Che connettore è Gianfra? È un connettore da portatile a ma non è possibile. Adesso esco col fucile. Cavolo, sono pregato sul mio ponte, sul mio traliccio a litigare sto cavolo d'uccello dal cavo. Ma guarda un po'. Adesso se la stanno prendendo con la Game Master. Pazzesco. Stai attento. Vabbè, ma se mi costringono sono in 3-4, le sparo. A pallini di quelli fini, ma fai danno all'antenna, quell'antenna è in vetroresina, Lo so, la bocca come niente, se prendi l'antenna, fa un danno enorme, maledetti, che uccello antipatico. È un uccello del cacchio, tutte le ciliegie si è mangiato dall'albero, manco uno mi ha lasciato. Quello è grave. Nell'orto mio cognato stava seminando e la cornacchia si stava mangiando i semi, capito? Vabbè, però cazzo mi ha mangiato tutte le ciliegie, erano già buone, via. Ma se me ne vai la cornacchia. Va bene, dai, ci sentiamo dopo ragazzi. Ok, io sono anche di là comunque. Ehi, adesso mi deve scendere il mio vicino, ci facciamo una birrettina, due chiacchiere, mi devo buttare un po' di verdura dell'orto, quindi ci sentiamo dopo. Ma la sorte che mandrone che sta diventando, e tu l'orto non te lo fai, no? A parte la tua verdura. Ah, adesso è il suo, ehi, fate fiori di zucca, zucchine, melanzane, pomodori, peperoni, tutto un po'. Adesso mi sto preparando la cassetta, mi ha già dato la voce. Preparati che sta arrivando la frutta e verdura, va bene, arriga. Anda calce. E così è bello. Senza sventiare con molto coltivatore. No, ma quello è bravo, c'è un sacco di manualità, io non sono buono. Anche stamattina ne stavamo parlando per fare questa cosa, ma no, vediamo. Se mi dà una mano lui ce la faccio. Dai, vi saluto, ci sentiamo dopo, ciao. Sì, vabbè, ciao. Vai a moto zappare, va. No, devo annaffiare anche proprio tardi, c'è troppo caldo adesso. No, grandi curigheggia, là. Ehi, quando sale il sole. Quando cala il sole, domino, una fiatina alle piante. Ciao, venticello, leggero, proprio. Doppio leggero. No, lì qua già si sente, è mestrale, già si sente. E vabbè che la bandiera è mezzo ragazza, è arrotolata un po'. E vabbè, è così. Già appena nata lì non moto zappare, vero? Non è stato... Sì, ai miei tempi già moto zappavo anche io. e ne avevo una bella di lusso di motozappa. E ti hai bugata, scommetto? No, negativo, cosa arriva? C'avevo anche il trattore 50 cavalli della Same, bello. C'aveva 12 marci. Anche quello te l'hanno fregato? No, quello se l'ha venduto nuovo, mio fratello. Quello già era bello, quel trattore. Era di quelli moderni, mi. C'aveva servo terzo, 12 marce, bellissimo. Era potente, più di 50 cavalli era. Non era grande, ma già era bello potente. Quindi 50 cavalli è un asino. È un asino, è lui. Guardate come funzionava, tu le compravi e gli altri ce li vendevano così, democraticamente. No, si comprava insieme la cosa. Già mi ha fregato col gomone, mi ha fregato, vedi? Anche le canne da 20 libere si ha vendute. Ui. Ma, vabbè. Io devo fare una... ecco, dopo che stanno in cosa, ma non c'è dubbio. Volevo vedere se c'era azione, o meglio, se c'era un canale, però non mi ricordo più una cosa. Vabbè. Oh, signore. Ma... c'è proprio un macello con questi tedeschi. E adesso anche loro ti fanno per l'Italia. Domani c'è l'Italia, c'è anche il Presidente della Repubblica, c'è a Wembley. Speriamo che non facciamo brutta figura sul casino. Avvivimi, speriamo, gatta, con la scusa che c'è lui e non perdiamo. Volevo fare come Pertini. Ma quello era un campionato al mondo. Sì, infatti. Pertini sì che era un bel presidente, ma la volta che è successo il terremoto, cosa era successo? C'era prima lui piangendo dei soccorsi. Era un gran uomo, ma era anche, insomma, anche molto sofferto da ragazzo. Sempre in galera, fuori, all'estero, di un nuovo attore, insomma, era molto amato come presidente, perché era proprio presidente del popolo. Quello sì che era lo signor presidente. No, ma anche questo è bravo, è molto in gamba, anche questo ne ha visto, gli hanno ucciso il fratello anche. È molto in gamba anche questo, dai. E un altro magistrato non è un pilota qualunque. Gli hanno ucciso il fratello, la mafia, questo qui. Sì. Comunque. Vabbè. Sto cercando di liberarmi un po' di tanti fili, di filetti. Connettorino, ho fatto un altro ricevitore, che era lampato, no, se ordine fa e se disordine trovi. Ma con quei portatili PMR si può parlare in digitale? Sì, autorizzato, ci sono 16 canali. Il canale dice, perché adesso il PMR va dal canale, cioè praticamente da 4460 da Espiccioli fino a 4200, una cosa del genere. Cioè 446-200. Sì, ho capito, cioè ti sposti dai canali normali, i primi 8 e vai da 9 in poi, così. Beh sì, iniziano fino al dire, c'hanno 16 canali perché il professionale c'ha sempre 16 canali, poi dipende dal sistema, perché ci sono anche DMR, DPMR, insomma non è specificato uno standard, usare quello che ti pare. L'importante è che l'antenna non sia movibile, se no automaticamente passano ad apparati con licenza, capito? Lo so com'è la situazione. E poi non è che faccia, io mi ricordo, c'era quel CMR della Brondi che aveva preso così per giocattolo, eppure andava così, dopo un Sassari arrivava a bomba, con 500 milliwatt, c'era un'antenna a molla all'interno, cosa... vabbè, sono tutte a molla in realtà, però evidentemente era una cosa fatta bene. In effetti si arrivava da Sassari a Usido. Sì, ma anche sulla strada Alghero, mi ricordo, un bel pezzo a strada Alghero, ma ne fa poco a perdere, infatti, ecco, caspita. Comunque sono buoni. L'HF, guarda, è molto molto rispettoso, è come le donne, cioè, dopo non dovrebbe prendere, prende, dopo deve prendere, no, basta un metro, ti sposti un metro e cambia la giorno alla notte. E qua per esempio non arriva Giulio, vedi? Giulio in PMR qua non arriva. Dipende cosa c'è davanti, se lui parla dal piano terra, dal secondo piano, se c'è la palazzina davanti o qualche palazzo anche più lontano, è ovvio che non si sente, anzi è normale. L'HF è fatto per due motivi, cioè è utile per due motivi. Il primo è per fare comunicazioni a livello di stabile, no? Quindi nei palazzi, all'interno di strutture particolari, eccetera, eccetera. E il secondo per lavorare con i ripetitori. Allora va benissimo. Se c'è un ripetitore che vede tutto, nel nostro caso sarebbe utile Usido, ecco. Se tu ti metti un ripetitore spaciare Usido, non ha problemi arrivare da Stintino, Alghero, lo copre tutto, come niente. Purtroppo io non c'ho quel pezzo di casa. Io non mi chiamo. E cosa ti ne fai a parlare col muro? Col muro. Già avrei parlato, con chi dovevo parlare? Natalino, io doppio zero, Natalino. Ehi. A me non me ne daranno mai, non ci sento per quello, perché sono sceso tre volte e non c'è niente da fare. E ne sapevo più dell'ingegnere, mi già lo sa Claudio. E cosa hai fatto di così grave per non dartene? Hai preso contravvenzioni, hai preso qualche cosa che è incompatibile con l'esame? No. Non ho preso niente, una solo di contravvenzione ho preso da poco per quell'affare là, che disturbavo, capito? Non avevo preso niente, ma vabbè, va bene così. Ma guarda che oramai le commissioni non le frega niente più di... Se tu vai e sei preparato te la danno, perché tanto ormai non ci sta andando nessuno, il problema è andarci, non è tanto fare l'esame, è che li stanno riempiendo per mancanza di persone, capito? Non c'è più nessuno. Ti stanno tappando, ti stanno già fratti. Sì, i tedeschi. E allora, esci a tratti. Ah, io esco a tratti, ma forse perché mi sto muovendo, no? Mi sto allontanando ogni tanto, perché devo staccare un cavo. E quindi può darsi che mi stiano tappando, perché sono troppo forte. Cosa ti stavo dicendo? Se ci vai, se proprio c'hai questo desiderio di andarci, ci vai, fai l'esame, ma il problema è, ripeto, che non c'è nessuno, capito? Non c'è poca gente, quindi non possono fare l'esame solo per te. Ma quindi anche quello c'è il problema, che non fanno l'esame, via. Purtroppo Natali non mi vuole più sapere, la gente, capite? Comunque, guarda, ti prendi il libro, adesso non c'è più, c'è un doppio, ci sono le solite cose, ok, non dovrebbe essere anche molto facile, nozioni di informatica. Infatti, c'erano anche quando l'ho fatto l'ultima volta, informatica, la roba di telefonia, c'era. Abbiamo il tuo primo picchio, infatti, di quegli esami. Se li fanno, se non li fanno, se devi andare a Roma, se devi andare... guarda, tu ti iscrivi a una... come si chiama? Un'associazione, anche di fuori, non è detto che deve essere... abbiamo quella di Cagliari, dove stanno, di Udbia. Ti iscrivi a una di quelle lì, fai le lezioni e poi ti presenti. Adesso mi tocca riprepararmi, mamma mia. Cazzo, quando sono andato ne sapevo di tanti. Qualcuno ha detto che il miglior compito che è stato fatto era il mio. Figurati, l'ultima volta sono andato. Allora c'era qualcuno che non ti poteva vedere, diciamola, papà, là. Evidentemente sì. Se si avessero fatto gli affari sui, la gente avrebbe fatto meglio. Che poi non ne ho tolto gli occhi a nessuno, io non sono andato mai a rompere le scatole dove la gente lavorava, figurati. E vabbè, è la Repubblica delle raccomandazioni, anche su questo sono riusciti a inquinare, per carità, sto tirando un filo, devo recuperare un mouse, e così Natale cosa ci vuoi fare, ma oramai con la gente non conta più niente, tutto cambiato, ma non frega niente a nessuno, e quindi non c'è più attività, cosa vuoi fare? Ma se è una passione, se anche uno spizzo. Antonino Berivella. Segare. Claudio è, chi vuole sia. Spalliero Berivella. Ma non ti mando di lì. Non ti mando. Antonino Berivella. Sì, è lui. Sentito là, è quel crumino. Già mi sente, già da Ticrino mi sente. Certo che ti sento. Ti sento. IS0, DSB, buonasera a tutti. E anche il nominativo di me. Oi. Così, vabbè. Chissà quando sono, però, ma mi sono la curiosità, anzi, soprattutto chissà se li stanno facendo, che sicuramente era tutto bloccato per almeno un anno. No, già li fanno, penso che siano adesso ottobre, già li fanno. Luglio forse, fine luglio, metà luglio, ho sentito qualcosa, comunque una fesseria mi è nata lì, è al computer a casa tua, lo fai, sono 5 domande e 5 risposte, ce ne dai 3 buone, passimi. Lo so che è così adesso. È molto più facile dell'altro esame, quello scritto, questo è orale, sono 5 domande, 5 te ne fanno, capito? Se ne sai è meglio, ma se ne sai 3, ne sbagli 2 passi lo stesso. Non pensare che ti hai tutta la rinchivia a interrogare te, no. 5 domande ti fanno, infatti. Sono facci natalini, tanto non ti costa niente. Non pensare che non sia preparato il natalino, Gianfra, non sottovalutare così. Ne sa. ne sa di elettronica, io l'ho sempre detto, si arrangia a fare tutto, è un bravo, al computer è molto bravo, le cose necessarie le sa, Doghi, vai, ti avvisa che non rubi, non ci vuole andare. Io avrei fatto la domanda, da casa non ti vede nessuno, nessuno ti conosce, intanto c'è una commissione esterna, non vedi a nessuno, nessuno ti vede. A domanda risposta, se ne azzecchi tutti e cinque è meglio così, se ne azzecchi tre, due le sbagli, passi lo stesso, perché non tentartela, no, oggi compreso io. E vedremo. Intanto non si paga niente, questa volta non si paga niente, devi fare la domanda e loro ti rispondono sempre via email, tutto online, e ti ponono in metto, ti danno il giorno, l'ora e la data, capito? E via, e si è a posto. Cos'è questo? Una 2 alfa, finalmente funzionanti. Va bene, avanti Gianfra, riprendi, dai, io vi sto ascoltando da lontano, non sto facendo cosa, già sono qua comunque. Dimmi una cosa, quanto ti arriva? Fondo scala oggi fondo scala, ieri era Santiago 9. No, si comprendi nulla, è come le alzano a quel ponte. A volte parte da Santiago 9, fa 2-3 scarti a Santiago 9, poi ne fa 2-9+10, poi parte a fondo scala e rimane sempre a fondo scala. È come trovadrono, è come quello che lo gestisce, uguale. Non ho più sentito, né sentito né visto. Sarà impegnato nel CV doppio perché sta facendo sempre, sapevo che sta facendo sempre CV doppio da Marte, tornate d'origine. Comunque è un buon segnale se con antenna esterna, con antennino, o con cosa. No, beh, con la radio grande, te l'ho detto, la radio grande ce l'ho io. Ce l'ho. C'ho quel, sempre il cable di quello grande, la monobanda, capite? No, lì c'è la X200, ma è fuori, ma è bassa, è a 2 metri di palo attaccato lì vicino alla Mantova. No, non ho voglia di fare nessun impianto. Arrivano tutti i punti, guarda, arrivano tutti, in UHF arrivano tutti. Adesso appena prendo il connettore provo quello in quello dell'Imbara in UHF, ma mi arrivano tutti, Monterraggio a fondo scala, da vedere, ma mi arriva a fondo scala. Ecco, mi confermi una cosa, perché a 7.50 a Valle Urbara, benché ci siano, cioè il ponte non c'è più, perché non sento neanche quello digitale, forse mi hanno fatto tutto. No, a 7.50 non c'è niente, a 7.75 sì, a me mi arriva segnale di 5, non so se è Oristano, se è Cagliari, non lo so, 7.75 mi arriva comunque. Insomma mi arriva, lo eccito, segnale di 5, da Carbonazzi non lo eccitavo, anzi sì lo eccitavo, ma segnale 1, 2, a volte lo eccitavo, a volte no, qua invece lo eccito, tutte le volte che lo richiamo lo eccito, mi arriva Santiago 5, capito? I ponti attivi sono l'R7 alfa, l'R2 alfa, l'R0 in VHF, poi c'è qualcuno, non so, qualche altro che mi sfugge, di Olbia, non lo so, e poi in UHF c'è quello 430025, c'era l'R4 che a Sassari al grattacielo ne ha ritaccato, non so, vabbè, non mi interessa, comunque quelli che sento io metto in atto ad ascoltare, quelli che non sento c'è la biglia in gomma della vostra mano. Sì, scusa Natali, guarda, quello che senti 775 è coso, non mi viene, dovevamo anche asciare nel monte quello di Nuoro, adesso non mi viene il nome, a Brancospina, ecco Brancospina, quello a 0.25, quello di Dell'Imbara che era sempre sordo come in una palla, adesso va bene con poca cosa, lo senti e lo ricevi, quindi è la sezione probabilmente di Olbia, lo ha messo a posto a puntino. E poi c'è quello digitale che arriva benissimo. Ma cosa ha messo a posto Olbia? L'R0? No, l'R1 dovrebbe essere, non ricordo male. Monte d'Imbara. Sì, è 430025, ma l'R0 ha messo a posto Fabrizio. Ho messo antenna nuova, cavo nuovo, penso che abbia fatto anche le cavità nuove, lo sta gestendo lui. Va bene, avanti Natali, dai, io sono qua comunque che vi ascolto, eh. Ogni tanto ti mando un messaggio anche in DMR. Capo a capo e cambio cambio. Lo stesso arrivano l'R0, l'R2 Alfa, li sento con il ricevettorino e non c'ho manco l'antenna sua, perché no, è sua l'antenna, quella del ricevitore, solo che è bassa, però arrivano ugualmente. È un'antenna di macchina quella che sto usando fuori dalla finestra e li ricevo. No, ci arrivano, ma voglia si arrivano, alla grande. Gava gava, dai, li prendi Gianfra, io sono qua, già torno subito, già sono qua in zona, dai. Sono qua e vieni da fuori a dentro, questo mi mancavano due pezzi, siliconare le zanzariere, io siliconati, adesso sto pulendo con l'acetone che qualcuno l'ha sporcata e poi già ritorno. Ragazzi, mi hanno rubato il trapano e le viti per mettere le zanzariere, c'ho tutto su pronto, adesso devo ricomprare le viti. Il trapano già ce l'ho con la batteria, adesso lo sto facendo caricare che mi si è caricato, io vado i buchi e mi si è fermato. Ordinato mi hanno fatto fare qua a Sasse le zanzariere a rullo, perché io ho i sportelloni, quindi devo avere le zanzariere a rullo per salire e scendere, per chiudere i sportelloni dall'interno. Adesso vi tiro a montaggio. Sono 2, 4, 4, 6, 8, 8, 10, 12, 14. Cazzo ho detto 40 euro. Ecco, lascia tutto qua, io me lo piazzo io, gli ho fatto l'assegno, ciao, arrivederci, buon viaggio, zanzariere pagate, me li piazzo io, e me le sto piazzando a tempo perso, capito? Ma sono messo tutte quelle del lato del cavello, dall'altra parte, e stamattina ne ho montato due dalla parte del giardino, adesso domani me ne piazzo altre due e giù venite. Sì, infatti, ti fa la cesta per tre. Sì, infatti me le sono direttamente costruito. Ho preso tante zanzariere, poi misura con le baratte, no? E poi le ho tagliate, con seghetto, adattate, e vanno bene così. Gianfra, c'ho le finestre a tre ante io, a tre ante, capito? Sono 170 per 120, sono enormi, e quindi non ne ho trovate le zanzariere di quelle che si mettono gli avvolgibili, quelle saliscendi normali, se no avrei messo quelle, gli sportelloni avrei chiuso da fuori, però non ne ho trovato così grandi. E allora ho chiamato a uno che conosco, me li ha fatte, già mi ha fatto pagare comunque, li ho fatti a rullo e me li ho piazzati, ho comprato i tascelli, i viti, tutto nuovo e via. Me ne mancano due, però man mano le sto pesando, sto siliconando sopra, capito, per l'umidità, sennò magari mi inumidisce il legno. Sto mettendo il silicone, quello buono, comprato ad Esole e basta. Ok, dai, ci sentiamo dopo che continuo qua. A frappè. Mi sentite bene col Galaxy? Sì, Natali. Benissimo, ottimo per la truppa. Va bene. Vabbè, si muove in un down. Mi tolgo il capo che si muove lo Smith qua, lo Smith appena si muove, se no gli ho sbagliato che cosa, chi cosa è? No, questo è il coso dell'ecco. Va bene, dai, ci sentiamo dopo, ciao. Allora Natali, ci senti? Ma mi dovrei ripreparare, non ne ho voglia adesso, gatto. Ne sto uscendo da tante cose. Mi sarei anche preparato. Mi compravo tonnelli, cioè avevo tutti i libri, tutti i cosi, ma chissà dove sono andati a finire. Cosa vuoi che ti dica? Almeno ti prendevi una bella soddisfazione. Quello sì. E poi potevo ottenere tutto quello che volevo. Anche. Ma poi c'è anche bisogno, perché sono troppo pochi, capito? Troppo pochi. Sì, si riparano i ponti, si ripara quello, si fanno quello, quell'altro, però. manca la materia prima, ma poi è un lavoro fine a se stesso. Sì, infatti, io l'attività la facevo, a vedere se la facevo. Infatti molta gente perché mi voleva, perché sapeva che io facevo attività, mi costruivo le antenne, e ne facevo un poco di cose. Io c'avevo veramente la passione. C'era gente che mi aveva preso in odio, evidentemente, quella gelosa, di cosa doveva essere gelosa non ho capito. Ma me lo dici, non lo so, non si sa, c'è sempre questa cosa, c'era sempre stato, per dire vero, però... Pensa, l'ultima volta che sono andato lì, che sono andato con un mio amico, non lo sapeva nessuno, nessuno mio, perché non avevo detto a nessuno che ci andavo. Beh, quando ho finito l'esame hanno cominciato a telefonarmi da Sassari, tutti sapevano che io ero lì. Vabbè, magari ti hanno visto, capito? Ti hanno visto e ti volevano... No, secondo me hanno chiesto chi scendeva tramite associazione e gliel'hanno detto cosa hanno chiesto chi scendeva da Sassari e gliel'hanno detto. E questo in che anno è successo? Beh, non me lo ricordo, probabilmente se lo ricorda Claudio che a noi. Ero sceso io e Franco, questo amico mio. Siamo scesi due volte con lui. Una volta sono sceso da solo, nulla. Non ho bisogno pure di sito, ed ero preparato, mi aveva aiutato a studiare Salvatore, quello che ti stavo dicendo, che saliva a casa mia. Saliva. Ero preparato, guarda. Natali, stiamo parlando. Allora, io ero proprio a zero. Ero proprio a zero quando, perché le patenti non erano ancora unificate. Dopo, l'anno dopo le hanno unificate, quindi Gianfra, potrebbe essere, 2005, 2006. Quindi un bel po'. Un bel po'. Andare in un'altra sezione, Natale. Lui non era in nessuna sezione, capito? Lui era per i fatti suoi ed era anche un bravo operatore, perché è l'unico della provincia di Sassari, o presso Sardegna, che aveva preso un diploma come SWL per il radioascolto, perché lui faceva molto ascolto e mandava le QSL, le aveva dato il diploma, lui seguiva molto i contest, capito? Ed era anche bravo. C'erano un sacco di amici anche di Mattuti, non ho capito perché l'hanno preso così di punta e non già me lo ricordo questa cosa. C'ero io, ti ricordi, sono venuto, ero con te io, eravamo io, tu e Franco e Cosio e Giovanni Mistero. Sì, infatti l'hanno data a Giovanni Mistero, l'hanno data. Dimmi tu adesso, e a me non me ne hanno data. L'ultima volta che sono andato, quando è stato promosso Vittorio, la moglie e la figlia, tutte e tre promossi. Quello è, vabbè, quello è da poco, facciamo il corso qua nel 2013, non me lo ricordo, sì, ma quel particolare già me lo ricordo. Vabbè, comunque Natali, adesso per me lo puoi fare, per me lo puoi fare, tanto sei a casa, non ti vede nessuno zannuta, non ce n'è elenco. No, non c'è nessun elenco online dei partecipanti, capito? È tutta una cosa online in diretta, tra te e loro, quindi io l'avrei fatta. Sì, mi ha toccato a studiare, mi sono dimenticato tutto, magari, dimenticato no, magari bisogna rinfrescare il tutto, non ci ho più bazzicato su quelle cose, molte cose le so perché le so, perché le ho studiate a suo tempo. però bisogna dare una rinfrescata. Ti fanno le domande che non sai, Cruppio, e sei bruttito, perché ti fanno 5 domande. Bisogna che almeno a 3 rispondi. Le leggi le sapevo, adesso saranno cambiate, e quindi bisogna rinfrescare anche quelle. Ma se devi tirare quello con Gianfranco, tira la mano a lui, se c'è da stampare qualcosa per te la stampa lui, poi già c'hai tutto, tu stampante, vale vale, dai un'occhiata, già c'è il tempo, capito? Io avrei fatto. Avrei avuto la soddisfazione di non farne, ma manco va l'anticamera non in bassa. Riprendi Gianfranco. Sì, allora, qua non so se si è aggiornato, anche se quello ministeriale dice 16 euro di marca da pollo e 25 euro per la prova dell'esame, contributo per l'esame lo chiamano. Poi niente. Quindi è fatta con la salita, tanto non è che stavo cercando se si fa da casa o se si fa da fuori, perché da casa erano per la questione Covid. Sì, per la questione però, Covid lo stanno facendo via online. Ti danno, deve essere un codice per entrare il giorno dell'esame, entri e ti fanno queste domande qui e devi rispondere, 5 domande sono. Già ha ragione Claudio, lo stanno facendo così. Adesso non so se sia più così, se bisogna andare a Cagliari, non so. Come bisognerebbe informarsi. No, non me la lasciamo parte da casa tua. E se non hai il computer o se non hai l'attrezzatura, ci sono dei punti di riferimento che ti danno loro, capito? Che ti danno loro. Te lo sto dicendo. Non c'è nessun problema, tu già sei abbastanza, c'hai la linea, la rete, quindi non c'è problema. Ti danno in tutto, ti danno la password, ti danno tutto, non c'è problema. E lo vai da casa tua. Ultimamente già era così per via del Covid, ma bisogna vedere i prossimi esami se li fanno così. Bisogna informarsi. Io so che tutto quest'anno è così, sino a dicembre è rimasto intatto, non c'è stata nessuna modifica, poi bisogna vedere il prossimo anno, però se la fanno la prima sessione è a luglio, perché l'hanno spostata, è a luglio, e la seconda sessione è a ottobre, se tu ti prepari, dai una smisciatina a quello che devi fare, ti prepari per ottobre, e lo fai quest'anno. Infatti. Bisogna assicurarsi che sia così, io mi do una rinfrescatina a tutto il programma, mi studio le leggi perché sicuramente saranno cambiate le frequenze, le leggi, tutto, non è più come era prima. Non lo sai. So che sono cambiate diverse cose, quindi. Le normative sono sempre uguali, Natali, c'è qualcosa che hanno messo in più, ci sono gli aggiornamenti delle frequenze perché ne hanno assegnato in più, di 7 mega, l'ampliamento, insomma, cazzate, sono abbastanza i documenti su queste cose, sono sicuro al 100% che ce la fai alla grande, perché sei abbastanza attento e preparato, secondo me io avrei tentato, poi se non va, pazienza, mi preparo meglio e ritorno, e torno a tentare la nuova. Veni, capito? Vai Gianfra. Sì, ma tu curati che anche del sito qualcosa è mezzo andato da viso, quindi non ho preparato anche informazioni, però io sono un carino. Comunque sì, gli esami si svolgevano a remoto, questo era per il 2020, sono le ultime cose che abbiamo ancora. Ti devi collegare al portale del Ministero dello Sviluppo Economico, ti devi registrare e vai in videoconferenza. In videoconferenza. Quindi ti contattano via mail certificata oppure tramite chiamata telefonica. Si svolgeranno a marzo temporale dal 15 ottobre al 15 dicembre. adesso vediamo, canta tutti i libri, ci avevo, non c'ho più nulla, qua non c'ho nulla, non so se ce li ho buttati, perché guarda, per l'incazzo vi ho preso la volta, adesso non ci scendo più, basta. Sì, ma non devi neanche tre domande, bisogna rispondere almeno a tre domande, due di natura tecnica e una di natura normativa, sulle cinque formulate. Quindi dai, è una cosa abbastanza, sì è vasta perché poi c'è tanta roba da sapere, però è fattibile. Sì, lo so che è fattibile. Poi non lo conosce qualcuno bravo in tecnica, ma per bravo intendo di quelli che fanno, va, non tanto la normativa a fare studiare, tanto le formule, dai, la matematica, eccetera. Anche quella sapevo, ma aveva preparato bene Salvatore. Chi se ne ricorda più? Vabbè, l'italiano ti tappetti la stanza di domande, tanto saranno sempre quelle, poi in questo tempo rispondi, no, quindi praticamente è orale, cioè ti dicono, che ne so, dica cosa significa, che ne so, un'attenuazione in termini di guerra, ad esempio. Bisogna che mi buschi i libri, torna, nuovi, quelli aggiornati, e mi studi un po' di cose. Cavolo, so, le leggi, vedi, le normative, magari qualcosa è cambiato. Io le sapevo a mena ditto. E poi ci sono anche, vabbè, questo qui viene fare sempre così. Questa è ancora carie. Manuale del radioamatore 31, era tecnica per radioamatori, questo era quello che avevo studiato io, 15 euro, poi normativa per radioamatori 8 euro e 21, poi l'altro è relativo. E adesso mi busco i libri, vediamo un po', mi metto a studiare. Vediamo se ce la facciamo. Ma perché non sì, vediamo un po'. Ma infatti l'ho trovato con il numero ufficiale, cioè, 22 marzo 21, recata nuovo regolamento, rispiamo la durata, non ce la ripresiamo della mobilità fissata, la potenza di venire senza solta, sì, vabbè, questo l'avevamo partito, 25 euro li vogliamo sempre, tu titoli per l'esame aeroportuale non ce l'hai? Come? Titoli tecnici per l'esame aeroportuale. No, non ne ho di quei titoli. Quasi con il numero 21, ma mi pare che la roba è più ricca. Solo quel patentino del marino è blu, radio telefonista di bordo, che non vale a nulla. Vabbè, quello lo davano le capitanerie, se non ricordo male, bastava il nome, o la matricola del natante. No, nulla, a me me l'avevano dato da Cagliari, mi era arrivato. Avevo fatto la domanda, me l'hanno dato. SWL il numero, aspetta con te, 453 mi sa. Sarà online anche questo, da tutti i miei volte fanno queste cose, non sono capito. fatto di ferrovie, 3 o 4 di quelli ne ho fatto. Gli mandavo il log con tutti i collegamenti e mi mandavano il diploma. Glielo facevo al computer via, con Excel. Ma qua vedo che ad esempio la di Parma fa anche corsi online, infatti vabbè, questo mi è iniziato da marzo per la preparazione proprio al corso. Ma ci sono anche tanti PDF, c'è tanto materiale di didattico, guarda, se cerca a Riparma, ci sono anche tutti i vari PDF per poter studiare, presentazione del corso, intero corso, matematica per componenti elettronici, circuiti in corrente alternata, induzione di filtri, decibel, valvole, classi di funzionamento, insomma, le solite cose, dai. Io un corso l'avevo fatto all'Ari di Porto Torres, io, che ero iscritto lì, il primo, solo che non sono andato all'esame perché c'era mia mamma che stava male, proprio quando c'era per dare l'esame, là, e stavo facendo il corso lì, a Porto Torres. Infatti, perché non è detto che poi devi essere per forza aver fatto il corso per fare la controparte, perlomeno il corso per la il conseguimento della patente, quindi ok, io mi rimasto, vediamo un po'. Qua dice scadrà come di concetto il 31 marzo, termine ultimo di presentazione alla domanda di esame, se di conseguenza la patente, eccetera, eccetera. E quindi poi Ilari fa corsi gratuiti per la preparazione e niente, anche online. Quindi praticamente non c'è neanche bisogno di nessuno, lo segue online. Solo che è già scaduto a causa della pandemia, le modalità d'esame sono cambiate, ora è previsto il colloquio orale online con la commissione. Le domande sono di carattere tecnico e normativo, quindi bisogna essere in grado di esporre gli argomenti studiati con la stessa chiarezza e il linguaggio appropriato. Infatti, è una roba radiotecnica e normativa, se sai le normative. Bisogna prepararsi bene su quelle e un po' di radiotecnica. Ti faranno qualche domanda di informatica, ma lì non c'è problema. Quindi praticamente tu ti devi iscrivere adesso nel 2022. Perché devi presentarla entro il 30 aprile, se vuoi partecipare alla presentazione. sessione d'esame. La stessa settimana, finale 30 settembre. Però dipende molto dalle domande che ci hanno, capito? Perché se non si presenta nessuno, cosa fai? Sì, infatti. E lo fanno una volta all'anno solo. Sì. Qua... Qua sì. Vedremo la farsi, dai. Più tempo c'ho per studiare. Gatta, già le 6:15, gatta, sono. E Giulio non si fa sentire. Ma il campanello di casa, così. Sì, ma sì, c'è andare i punti. Allora mettiamo solo il comando, per essere una cosa, così piccoli. Mandiamo l'impulso, scusa il telefono, va il campanello di continuo. Allora, vabbè, se risponde. O sta guardando il ciclismo, sempre che ci sia, non lo so. Non lo so. Stavo sempre leggendo, eccetera, non... Dipende da quante domande ci sono, infatti. Magari sei solo. Sono solo e mi fanno 5 domande che mi dicono auguri, le manderemo la patente, manda. Infatti, ma vabbè, la parte normativa penso che comunque sia sempre la stessa più o meno. Almeno una volta all'anno, quindi non è difficile, si possono fare due o più volte. Il problema sai qual è? Che anche se tu chiami l'ispettorato, non lo so se questi ti rispondono. Infatti, è quello. Magari questi poi hanno delegato tutto a Roma. Perché anche questi ispettorati da sempre non c'è nessuno, negli anni passati hanno distrutto veramente la pubblica amministrazione grazie a quello che c'è anche adesso con l'affare di bloccare il coso, il turnover, c'è gente talmente anziana che non capisce più un tubo oramai. Sì, infatti è un macello la pubblica amministrazione oggi, bisogna vedere adesso cosa ne esce fuori. Ma ad aprile hai detto c'è tempo fino ad aprile a fare la domanda. Ma guarda, io per stare tranquillo proverei a chiamare.